Oh, il y avait encore que les 10 jours sans, les 10 jours avant Pasquos, qui appelaient encore la fête des 8 jours. Et d'autres choses, nous faisons comme messe, qui traisaient les saints sacrements de l'Église, qui n'y avait cap les divendres saints à Pau, qui nous n'avons qu'à la communion, puisque le bon Dieu que c'est mort, et qui nous n'avons cap ni communion ni rien. E le dijous, che avevo io alla messa, le dijous alla messa alle maiti, e che facevano suonare le campane, che dicevano alle campane che si vanno a rumo, perché le buon Dio che si muore che partono a rumo, e che tornavano le 17 maiti, che facevano una suonare le campane le 17 maiti che tornavano. E alla messa, la pregnata che aveva l'Everespa scappava da colli, l'Everespa dei Giugius. E la gente andava alla messa, e che piscava la scampana non se ne era andata, che non suonava un cap, e i sempani di corca avevano le petite sonette, che facevano tutti i villaggi, che l'Everespa che erano a Tresuro, che vengono alla messa. Che venivano i serpenti di corte e facevano le torri. E poi che dicevano la Iberespos, tutta co, e alla fine della messa, abbiamo la fine della Iberespos, tutti che tappavano la Emas, che erano andati ai Giugius, gli scavavano giù già le bundine, avesse che tappavano la Emas, che avevano, che erano andati ai Giugius. Che erano andati a cassare su tutto. Se dicia qualche regola speciale? No, no, su che fai Febbrich. Che tu avevano... Alla imasa alle spese. Alla imasa alle spese, che tu avevano.